chef e poi stupire. Per uno come me, che i denti non li sa più stringere, e vado avanti da me, finché cede da me. Non c'è più posto qui, neanche più da te, se vuoi che l'universo da com'è. Non c'è più posto qui, neanche più da te, se vuoi che l'universo da com'è. E vai avanti da te, finché c'è da te. Non c'è più posto qui per me, che non voglio più perdere. Se non porti a me la vita che ora c'è. Per quelli come me, che molto non sappiamo ancora com'è. Non c'è più posto qui, te lo ripeti sempre te. È meglio che ora vai amico, è meglio per te. Non c'è più posto lì per me, che non ho tempo da perdere.